fine avevi fatto K2? Non ho copiato, sto scendo male. E adesso meglio. Sto scendo un po' a tratti, sto scendo un po' a tratti, forse c'è qualche cosa al microfono. Adesso va bene, qua c'è qualche filo che sta accanto. E allora, cosa mi racconti? Quando sta? È uscito. Spinta, vediamo un pochino, 1, 2, 3, 4, 5, pro, downhill. Gianni doppio room. Avanti. E buonasera. Ciao Antonio, sto bene. Si tira, e tu? Sto un po' senza sentirti. C'è tutte le scelte, Antonio, tutte le scelte. Cava cava, poi adesso mi comincia tra poco il periodo caldo e me ne esco la sera a vedermi qualche spettacolo, qualche cosa. Quello sì, ma in questi giorni accendevo, ma no, non sentivo più nessuno la sera, è possibile? Beh, anche ieri sera c'era un po' di gente. E adesso che ora? Io, sai che l'ho spento verso le 9:30, le 10, è possibile, non c'era nessuno. No, che ce l'avamo a quell'ora, scusa. Ma non è che ci avevo lo scotch chiuso? Oh, non lo so, infatti. Adesso ce l'ho acceso almeno un'oretta, non c'era nessuno, giusto? Io ho acceso adesso, veramente. Non c'ero a casa, sono entrato adesso. Fa una mezz'oretta pure. Ascolta, già, toglimi la curiosità, ma in U e in V funziona anche quello in propagazione? Non ti capisco. Nel VHF, UHF, aspetta, la cosa ho toccato, in VHF e UHF funziona anche quello in propagazione? Sì, sì, sì. Anche quello in propagazione, ho capito, ma è perfetto. Hai sentito città est? Ce n'è a, come ti dinarra il saggio, a Furriadura, già 3 giorni ce n'è una marea. Io mi sto tentando un ricevitore, se ci riesco è di lusso. HF? Sì, sì, da 0 a 30, un ricevitore molto bello, però sta salendo troppo. Quanto è là? È così all'asta, è molto viene. Boh, mi sembra che sia salito già sulle 200, roba del genere. Ah, guarda, sai quanti ne ho visto, non all'asta, con garanzia 100, 120, 150 massimo della Kenwood, ce ne sono un bel po' ce ne. Ma bisogna avere sempre quello che fa, Antonio. Sì, sì, da 0 a 30 HF con bande laterali, questa volta... Mi sono informato dettagliatamente ed è così, da 0 a 30 HF con bande laterali, bello, è veramente, questo adesso mi ricordo che era il modello AOR, adesso mi ricordo se era 300, 3000, una cosa del genere, e ti dico che c'è, va un frontale veramente spettacolare, guarda, molto, molto, molto bello esteticamente, poi che già è una garanzia, però sempre di seconda mano, giustamente non ne fanno più nulla, poi dico veramente bello, non toccava neanche i 150 euro. Pagato. E ce n'è, c'è Giga, ben tenuti, funzionanti, non con lo schermo, con lo schermo LCD, tutto manuale, anche ricerca dei canali manuale, a numeri stampati, bello, c'erano tanti modelli. E poi si trova anche in questi giorni, porca miseria, ma l'ho persa. Avanti, chi mi ha salutato? Poi fra. Mi sentite anche a te, dai, sono in compagnia di Antonello Diossi. Antonio, tu lo senti, amico Franco di Sorso? Sinceramente pio, devo attaccare l'amplificatore. No, lo sento proprio pochissimo. Ciao ragazzi. Non ti sente nemmeno lui, Andrà, beh, io sto cercando anche con 2 fattimi, Antonio, come sta arrivando? Santiago 9, Radio 5, e anch'io lo stesso, lo sai. Bombe di propagazione qua, va molto bene adesso. A voglia, comunque salutamelo, l'amico di Sorso, a me guarda Santiago 1, la radio. aspetta che sta cercando. La radio è molto distorta, si tira anche un po' di corrente, per quello non riesco a sentirlo. Avanti, in questi giorni niente di particolare. Quindi Antonio, c'è per lavoro? Oggi sono due giorni fermo. Vabbè, ti riposi un po' là. Forzato. Vabbè, adesso vediamo. Qualche altra giornatina già ci esce. Volevo dire, in questi giorni, qualcosa di diverso, di nuovo? No, negativo. Niente di particolare, ma mi sembra che ci sia meno affluente, non sbaglio, forse sarebbe le giornate che vogliono un pochettino a prendere un po' di aria da uscire da casa. Ragazzi, sì, in effetti è così. C'è la gente, c'è una ieri, c'è la gente. Oh, eppure era attaccato, non so, può darsi che abbia spento anche il piumino, ma quando avrò spento sicuramente si sono attaccati. Là. No, ho sentito così di sfuggita a Falchetto. Ci hanno fatto una chiacchieratina veloce. Niente di particolare, poi ho sentito sul canale 4, erano in banda laterali, quelli di Buduso e compagnia Bella, e lì poi non ho sentito nessun altro. Ah, io non ci vado nemmeno. Non, di solito frequento Piebo. Qualche volta su 45. Ma ci sono delle prove. Il 448 si sono allineati, sono decisi a lasciare a mettere. E poi nel frattempo stavo un po' sfocciando in questi canali. Io. Avanti, chi mi chiama? Ma è buono. Avanti, Antonio, lo senti a Franco? No, ti giuro di no. Non ti sente, boh. Sì, un attimo che mi sto cambiando. Poi sto mettendo il pigiama. Queste mutande non sono indicate per Falcone, sono le donne. Fanti Antonetto. Ho capito, le mutande di chi? Aspetta, stare attento alle mutande, perché se no Falcone, che sarebbe, non so se lo sai, chi è Falcone. Hai detto che le mie non sono indicate per i maschi. Falcone già l'ho conosciuto, è la verità, sapeva anche dove abitava, due risate mi ha fatto all'epoca. E già erano bei tempi, ho fatto anche lunghe chiacchierate, già lo sai com'era. Già ho avuto la fortuna di farmi due risate all'epoca, però e poco lo assillavano, lo prendevano in giro, guarda. Dei tempi anche quelli, C'è cioè l'MP3, fate un po'. Sì, di lui. E allora? Corrido, non si attaccava alla portante, guarda, mi gria Sant'Antonio alla mollare. Comunque era un personaggio, dai, già è stato divertente quei tempi, peccato, sono finiti. Peccato. Ma stasera proprio non entra nessuno. Stasera? Non si sente nessuno, fra. Oh. Ehi, ciao, fra, avanti. Antonio, ti saluto anche io, là che sono al telefono e mi hanno detto che ci andavo a prendermi caffè, un amico, là. Ti saluto, magari ci sentiamo dopo, passo 5 minuti a fare una chiacchierata e poi me ne ritorno a casa. Là. E io, buon caffè già, nel caso ci sentiamo più tardi, dai. E io, come l'uomo se pigiamo a essere tornato fresco, vabbè, ma già mi fa piacere essere compagno. Adesso sentivo meglio, come mai? Come? Adesso si è amplificatissimo, prima era un bel tenue. E perché stavo parlando da lontano? Ah, ecco perché, devo vedere ogni differenza. Va bene già, buon caffè, ci sentiamo più tardi. Salutami a sorso, se c'è ancora che non lo cuffio. Non è andato via che sta arrivando gente. Ho capito, va bene, ciao, ci sentiamo. Ciao Antonio, a te. Attenzione 10. Guardi, zingaro. Guardi. Aspetta, mi stavo infilando la casacca, allora? Va bene, è andata alla grande. L'ho montata e anche più, come pensavo, più silenziosa. Sì, è andata meglio, perché bisogno, come si dice, da alcune dimensioni. Oh, perfetta, era uguale all'altra. Ho messo anche l'aggancio laterale, gli ho fatto ho utilizzato una squadretta di quelle in ozone, bene attaccata e perfetto, perfetto. Grazie caro. Bene, lì, una volta fatto un lavoro è stato un bel canto da fare il resto, capito? E provare. Sicuramente, guarda io ti dico, fare il resto secondo me è più semplice, nel senso che si potrebbe fare anche allargando il buco di scarico, infilandoci dentro il tubo a collimare con l'altro, proprio a farlo entrare dentro, già forato quindi il tubo, dopodiché glielo saldi però preventivamente riempendo la camera, non c'è bisogno di aprirla tutta di nuovo. Sì, non lì va, l'ho fatto mettere tu io. Almeno si può, come va nel tagliatore, dove in qualche maniera si fa. Per l'aromadiato, sì. Non sto per niente bene, che proprio devo lavorare, non ci fa metto. Poi Roger, scusami che sto facendo le visite. Qui ti lascio là che sto uscendo. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, buon lavoro, se stai andando a lavorare.